noi abbiamo avuto il 27 aprile del 1945 l'ordine dal Comando Generale del CVL di eseguire la sentenza emessa dal Comitato di Liberazione Nazionale. Il comandante della spedizione decise di portare Mussolini e i suoi complici in piazzale Loreto perché quello era il luogo che più significava il contributo dato dai milanesi alla lotta di liberazione. Piazzale Loreto infatti era stato teatro di un eccidio dei fascisti. Gli antifascisti hanno girato 15 patrioti e rappresaglia sempre un'azione fatta due giorni prima di Alevosi da parte dei campi di Giovanni Pesce, cui sono stati fatti fuori, come si dice, due o tre tedeschi. Un'operazione di ordine politico e morale determinata dal fatto che si era conclusa, si concludeva in questo modo una vera e propria guerra che non è stata voluta dal Comitato di Liberazione Nazionale ma è stata voluta dal dittatore che l'ha imposta agli italiani. Quali sono le ragioni politiche e morali di questa condanna? Se lei le dovesse raccontare a un giovane di oggi che non sa niente. Beh, evidentemente se Mussolini fosse stato consegnato, come desideravano gli alleati a loro, evidentemente Mussolini sarebbe stato giudicato secondo un criterio di convenienza politica, non di giustizia e di moralità italiana. Evidentemente noi rischieremmo oggi di averlo ancora sullo stomaco. Mussolini era uno strumento creato dalla borghesia, questo era Mussolini, perciò lui agiva contro la classe operaia, contro gli operai, contro tutti i lavoratori, non soltanto la classe operaia. Socialiste prendono piede, non potremo più fare le speculazioni. Facciamo intervenire l'esercito, diamo le teste calde e in 8 giorni ristabiliremo l'ordine. Per giustificare la forza dobbiamo sfruttare la confusione del momento. Bisogna attivare dalla nostra parte i borghesi. E anche detto per gli agrari, i combattenti, dobbiamo difendere la patria. Rinforziamo le squadre fasciste. Denaro a Mussolini. Ammirati, ringraziamo i signori industriali e i commercianti per averci messo a disposizione questa bellissima sala. Il nostro programma è semplice. Vogliamo governare l'Italia. Un solo odio si muove. L'odio al socialismo. La parola ha finito Mussolini. Voi borghesi, classe dominante, siete giustamente preoccupati per i vostri interessi. Tu, Mario, hai bisogno di me. Tu, industriale, hai bisogno di me. Tutti. Avete bisogno di me! Avete bisogno che gli operai contadini siano tranquilli! Noi preferiamo coloro che lavorano duro, secco e scodo e possibilmente in silenzio! Thank you.